Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I was... Se io vi dicessi ragione e sentimento, beh, avreste indovinato subito, insomma, l'autrice Jane Austen. Ma ragione e sentimento è stato anche riscritto, è uno dei classici della letteratura soprattutto femminile. Jane Austen, scrittrice vissuta fra la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, insomma, questa è una pietra miliare della letteratura europea. L'ha riscritto in maniera ironica, brillante, divertente Stefania Bertola. Stefania Bertola, molti di voi la conosceranno per una serie di romanzi, sempre con questo stile ironico. Ne cito alcuni: Ragazze mancine, Romanzo rosa, Biscotti e sospetti. Stefania Bertola, hai voluto misurarti questa volta con una riscrittura, quindi non un testo originale, non una trama originale, ma hai preso niente poco di meno che Jane Austen e ce l'hai riproposta la stessa storia, insomma, sostanzialmente nel 2014, facendo diventare l'ex Surrey, diciamo così, il Surrey di Jane Austen, il Piemonte e in particolar modo Torino. Ora, con tutto l'affetto e l'amore, chi te l'ha fatto fare a misurarti con uno dei classici, super classici, sul quale sai che chiunque potrebbe farti le pulci, e invece no? Ma io non mi sono misurata, non ho mai pensato di misurarmi, e mi fa molto ridere che adesso nelle interviste molti mi chiedono di questa cosa del confronto, a cui io per la verità non avevo mai pensato. Semplicemente ho letto su una rivista letteraria, credo inglese, adesso non mi ricordo, qualche anno fa, che in Inghilterra avevano affidato i 6 romanzi della Austen a 6 autori inglesi famosi, tra cui Joanna Trollope e Alexander McCall Smith. E la cosa mi ha incuriosita, mi ha divertita, e semplicemente leggendo ho pensato: ma a me, se mi chiedessero di farne uno di questi 6, quale farei? E ho detto: beh, sicuramente ragione e sentimento, perché, come dire, il suo tema di fondo è talmente eterno, universale e soprattutto irrisolvibile che è attraente. Dopodiché ho detto: beh, sai che c'è, anche se non me lo chiedono, io lo faccio lo stesso. E secondo me è fatto bene, senza fatto benissimo. Mai neanche pormi il problema del confronto con Jane Austen, perché come fai? Tra l'altro Jane Austen è stata talmente razziata in mille modi, non so se tu hai presente, c'è per esempio un fantastico Orgoglio, Pregiudizio e Zombie. Ah no, non lo conosco. Ah, questo, te lo consiglio molto, è un romanzo da cui è entrato anche un film in cui tutta la vicenda di Orgoglio e Pregiudizio è riscritta nel mondo degli zombie, per cui dopo questo non c'è più problema, capito? Non c'è direi più problema. Tutto è fattibile. Vale tutto. Vale esatto. Secondo me comunque Stefania Bertola ha fatto benissimo a fare questo ragione e sentimento, perché io mi sono divertita tantissimo, anche perché Stefania Bertola ha una caratteristica, quella di usare un'ironia sottile e anche molto molto intelligente. Insomma, con i suoi libri si sorride, ma si pensa anche, perché insomma si sorride anche su cose, su aspetti della società particolari. Non è un caso che tu abbia scelto ragione e sentimento, dicevi, a un tema universale. Allora ricordiamo la trama proprio rapidamente, le coordinate GPS. Le coordinate GPS sono di un signore che muore, allora come oggi, e lasciando una vedova e 3 figlie in condizioni molto difficili, perché la casa in cui abitano non è più loro. In più io ci ho caricato che questo signore era un giocatore seriale, per cui oltre alla casa hanno perso anche tutto quello che avevano. Per cui abbiamo queste 4 donne che di colpo passano dai lussi e dall'eleganza alla non proprio miseria, ma insomma a condizioni molto ristrette. Devono ricominciare da capo la loro vita. Devono ricominciare da capo nella Torino, diciamo, del 2014. Esattamente. I nomi però tu li hai rispettati in pieno, sono quelli di Jane Austen, perché abbiamo Eleonora, che è la figlia più saggia, che crede la ragione. La ragione. E Marianna, che è la schiodata. quella che la schiodata non è male. È veramente fuori Marianna, che mette l'amore davanti a tutti in un modo suo particolare. Poi c'è una terza sorella che nel romanzo dell'Austen quasi non esiste, sì, a cui invece è io piccolina. Ho dato anche a lei un po' di vita, un po' di personalità. E poi naturalmente sì, ho tenuto a grandi linee sostanzialmente la trama originale, però poi con delle varianti, delle modifiche eccetera eccetera, perché insomma se imposte no anche dalla modernità, sì, se no diventava una roba stucchevole, invece ho cercato di veramente renderla in qualche modo contemporanea. Allora, giusto per farvi capire un po' i personaggi come sono stati dipinti, Eleonora è la ragione, infatti fa la maestra elementare, una molto pragmatica. Nel momento in cui insomma si capisce che lei, le sue due sorelle e la madre sono rimaste senza casa e non hanno praticamente un soldo in tasca, lei esce con questa frase meravigliosa: e se andassimo a stare nell'alloggio di Mirafiori, la madre chiaramente come in due camere cucina davanti alla Fiat, cioè lei è una ragazza insomma assolutamente sì, pragmatica. Lei non si scoraggia mai, loro hanno questo alloggetto minuscolo, per chi non è di Torino non è una gran zona Mirafiori, non proprio di quelle del massimo, che però è comunque al momento è affittato, quindi, e quindi non ci vanno a vivere, non lo ci diciamo vanno a vivere subito. questo piccolo affitto anzi sarà molto utile, no, così come nel romanzo, questa è una delle cose che ho tenuto, così come nel romanzo dell'Austin interviene un parente che ha una casa, un alloggio disponibile e glielo cede in pratica gratis. Questo avviene nel romanzo dell'Austin e questo ho fatto succedere anch'io, per cui loro si piazzano in questa casa in un quartiere invece carino, però insomma la casa è piccola, non è niente, loro arrivano dalla famosa villa dei Lillà e invece si trovano in un alloggetto di poche stanze e di poche pretese, però da lì comincia la loro nuova vita. E la loro nuova vita è proprio inserita nella società torinese. Io qua mi sono fatta un sacco di risate perché chiaramente ho visto un po' i ritratti che tu hai fatto anche della società bene di Torino, o quella che aspira ad essere la società bene, le signore di un certo livello. Ecco, noi a Milano diciamo le sciure, a Torino come si dice le signore? Non ha un termine. Non c'è un termine equivalente. Le madame. Secondo me le sciure, per quello che capisco io di Milano, cioè molto molto poco, sono più delle signore ricche. Invece queste sono più delle signore per bene, sono quelle le classiche signore che esistono solo a Torino, che comprano i vestiti in sartoria o in boutique e poi staccano l'etichetta e dicono che li hanno comprati al mercato. Questa è la signora torinese. E infatti sono delle parti molto divertenti, tra l'altro un'amica di Maria Cristina, che è la madre appunto di queste tre ragazze, gestisce proprio un atelier e all'inizio sì. Quando vuole in qualche modo, dice: cosa posso fare io per la mia amica Maria Cristina che è caduta? Continuerò a invitarla alle sfilate, questa sì, è la cosa principale. Il massimo, esattamente, sì, perché comunque un modo di non farle pesare il suo cambiamento di posizione. In realtà poi questo personaggio qui, per esempio è un personaggio che nel romanzo originale non c'è e che è una specie un po' di fata, no? Di fata madrina che in qualche maniera aiuta discretamente la famiglia ed è un bel personaggio, secondo me una persona carina. Poi c'è invece per esempio che è trasmigrata da ragazze mancine, questa perfida Clotilde Castelli, che in ragazze mancine è una grande protagonista cattivissima, qui fa solo un paio di comparsate ma sempre odiosa resta. A proposito delle tre figlie, abbiamo visto Eleonora, l'unica che ha insomma il sale in zucca, fa la maestra elementare, lavora, che già per loro è una cosa insolita. Infatti lei ha preteso questa cosa di fare la maestra mentre il padre voleva avviarla una incerta carriera nel mondo dell'avvocatura. Lei ha detto: no, non è roba per me, io voglio un mestiere semplice, e ha fatto la maestra, e meno male perché almeno hanno questo stipendio adesso insomma. Poi c'è Marianna, che abbiamo detto la bellona, quella che vive insomma così in un mondo parallelo, esattamente, e c'è Margherita, fantastica, abbiamo detto nella Jane Austen, diciamo in Ragione e Sentimento era un personaggio decisamente minore, qui la vediamo che ha 14 anni e ha una passione meravigliosa. Adesso vi leggo il brano così si capisce. Margherita ha confessato che quel George è George Harrison, di cui è innamorata già da parecchi mesi. Da qualche tempo però prova un sentimento che non osa dire il suo nome anche per Paul McCartney. Insomma, questa ragazzina di 14 anni nel 2014 è innamorata e parla virtualmente con i Beatles. Eh sì, perché anche questa è una cosa che in realtà ho visto succedere, cioè ho visto ragazze, nipoti, figlie, amiche, figlie di amiche che comunque al momento della scoperta dei Beatles impazzivano. Io sono andata a vedere il film di Ron Howard, quello sui Beatles, e con mia figlia che ha 30 anni, mia nipote che ne ha 20, e la platea era piena di ragazzine estasiate, per cui mi divertiva l'idea appunto di darle questa passione un po' assurda, un po' anacronistica, che le sue sorelle, che sono molto giovani anche loro, loro, anche se più grandi di lei, assolutamente non possono né capire né condividere, e la considerano completamente pazza, svalvolata anche lei, sì, abbastanza. Ecco, dunque ci sono le vicende di queste tre ragazze, della loro madre, quindi naturalmente ci sono vicende d'amore, innamoramenti, incontri, eccetera, e quindi ci sono ovviamente gli uomini. Non è che ci fanno una figura proprio bellissima in ragione e sentimento, sia sono, dice, insomma, un po' chi più chi meno, dai. Beh, però, per esempio, chi più chi meno, è vero, hai ragione, però sono tutti un po' vigliacchetti, o che non hanno il coraggio di prendere delle decisioni. Oppure c'è il meraviglioso Ludovico, mi ha fatto molto ridere questa frase, lui vabbè investe per caso, non lo fa apposta, con la sua moto Marianna, insomma, poi iniziano una specie di relazione, e tu a un certo punto scrivi: in questi 15 stessi giorni, diciamo, della relazione, lui non ha visto nessun'altra, è un omaggio che porge volentieri alle ragazze di cui si innamora, finché è proprio preso non le tradisce. Sì, perché in realtà io in quel momento mi mettevo proprio dal punto di vista di lui, di questo ragazzo, anche lui con una profondità di sentimenti di circa 4 centimetri. Allora vedi, ma lui che si considera molto nobile e molto generoso per il fatto che finché è innamorato lui non tradisce, perché ci sono anche altri che invece tradiscono anche mentre sono innamorati, lui questo non lo fa, quindi è un ragazzo. Il suo innamoramento dura poco. Sì, certo, dura quello che dura, però anche alle volte anche fino a un mese o due, e in quel periodo lì lui è irreprensibile, è sfedelissimo. E poi ci sono altri personaggi, per esempio Eleonora incontra Giulio, anche lui della buona società torinese, ma anche lui lavora. Sì. Incredibilmente. No, beh, no, adesso non esageriamo. Scherzo, naturalmente. Credo che la maggior parte delle persone, anche della buona società, lavorino in qualche modo, se no sarebbe veramente un po' difficile mantenerli tutti a UFO. No. Giulio lavora, è una persona per bene, e Giulio ha rappresentato per me il principale ostacolo nella riscrittura di questo romanzo, perché la sua storia, che qui non vorrei raccontare perché mi certo. piacerebbe che chi non sa avesse il piacere di scoprirlo leggendo, era quella più difficile da adattare ai tempi nostri. Era veramente complicato, perché presupponeva, insomma, il fatto che lui avesse un po' di difficoltà nell'iniziare una storia d'amore con Eleonora per dei motivi che al giorno d'oggi era veramente difficile far reggere. Quindi mi sono decerebrata a lungo per cercare di inventare qualcosa, e poi sono riuscita a mettere insieme una storia che, insomma, rende in qualche maniera plausibile la vicenda, il che però mi ha dato modo di inventarmi un personaggio che mi ha fatto molto ridere mentre lo scrivevo, che si chiama Lucy Asa Zamani, che a è un certo una signorina punto manda nigeriana. una lettera, una mail. Una signorina nigeriana che, insomma, se la cava abbastanza bene per rendere plausibile tutta la storia. Il motivo per cui lui non vuole impegnarsi, mettiamola così. Hai parlato di, appunto, di adattare alcune situazioni ai tempi nostri. Allora, sicuramente la storia di famiglie che rimangono senza soldi può essere sicuramente adattata ai tempi nostri, ma secondo te cos'è proprio l'elemento che oggettivamente non hai avuto bisogno di cambiare tanto, perché poi fondamentali anche a distanza di due secoli restano? Beh, proprio il fatto della ragione, del sentimento, cioè le due sorelle, Marianna e Eleonora, sono eterne, no? Quella che si innamora pazzamente, che dice si ama una sola volta nella vita, quell'amore eterno per sempre, senza di lui muore, eccetera eccetera, e quella che invece dice, c'è un pezzo che adesso non ricordo a memoria, ma in cui Eleonora dice una cosa che è molto carina, dice: l'amore per me non è un animaletto aguzzo che morde e strappa, no? È un vento che piano piano gonfia le vele. Cioè, lei ha un concetto di amore come una cosa che si costruisce, ma neanche si costruisce, perché si costruisce presuppone un po' troppa intenzione, che cresce per conto suo piano piano nel tempo, conoscendosi e andando. E invece per Marianna è proprio la tempesta, e secondo me questa cosa qui era nel 1811, dice, quando è stato scritto questo libro, e era 100 anni dopo, e adesso sarà fra 100 anni, cioè, perché i sentimenti, la ragione e il sesso sono i tre colori primari dell'amore: il rosso, il blu e il giallo, e poi ciascuno li mescola come vuole. Grazie allora Stefania Bertola, ora in libreria con Ragione e Sentimento, pubblicato da Einaudi. È un romanzo che abbiamo detto, insomma, sì, è stato costruito un po' sulla falsariga, proprio sulla trama di Ragione e Sentimento di Jane Austen. È stato riscritto in modo, secondo me, brillante, ironico e divertente. È un romanzo che vi consiglio veramente. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Roni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Il cacciatore di libri. Ora parliamo di Tempo di Libri, la nuova fiera dell'editoria che si terrà a Milano negli spazi della Fiera di Rho dal 19 al 23 aprile. La scorsa settimana è stato presentato il programma, quindi dunque siamo in grado di dirvi almeno a grandi linee, non giorno per giorno naturalmente, che cosa accadrà durante questa manifestazione. Il programma è stato organizzato in base alle lettere dell'alfabeto, come spiega Renata Gorgani, presidente della Fabbrica del Libro e coordinatrice del Comitato Scientifico. La fiera è tutta giocata sull'alfabeto, cioè ci sono 26 lettere, le 25 lettere più la lettera et, che vuole dire digitale, e tutti gli eventi della fiera sono organizzati su queste lettere, quindi ciascun visitatore può decidere che per esempio gli piace la B di bacio perché ama la letteratura rosa e allora seguirà tutti quegli eventi, oppure la A di avventura, oppure qualunque delle altre lettere che abbiamo preparato. Su che cosa punteranno gli incontri di Tempo di Libri ce lo spiega la curatrice del programma, la scrittrice Chiara Valerio. Soprattutto su come è stata costruita, quindi su come abbiamo lavorato con gli editori italiani. Abbiamo consegnato la griglia dell'alfabeto e ci sono tornati indietro gli incontri direttamente sotto la lettera. Quindi è stata la prima volta, almeno a mia memoria, in cui la fiera si è comportata come un editore degli editori. Quindi ha dato una committenza e ha chiesto agli editori italiani di raccontare una storia attraverso i loro libri e i loro autori. E questo abbiamo fatto, esattamente questo. Facciamo un esempio di una lettera. Che cosa si trova un visitatore di Tempo di Libri che decide di seguire uno o due tipi di lettere? Pensi alla lettera J, che sta per l'anniversario di Jane Austen. È l'esempio di come, che se la letteratura è vera, somiglia ai pomodori, cioè te li fai in salsa e sai che sono pomodori, li mangi crudi e sai se sono pomodori, e così Jane Austen. Quindi abbiamo chiamato grandi scrittrici internazionali come Sveva Casati, come Simonetta Agnello-Orbi, come Sophie Kinsella o Clara Sanchez a parlare di Jane Austen. Questo abbiamo fatto, abbiamo chiamato 2 economiste inglesi, italiane che lavorano in Inghilterra a raccontare come mai i matrimoni tra persone di censo diverso non funzionano forse, ma sono un motore narrativo. Quindi così funziona. Non c'è concorrenza fra Torino e Milano? No, un po' perché io penso che senza memoria del passato non c'è immaginazione del futuro, un po' perché io personalmente non ho nessun astio per il passato e spero che a Nicola, diciamo, e alla sua squadra, perché io penso che se siamo veramente bravi per generazione riusciremo a fare qualcosa che moltiplica. In generale l'amore è un sentimento che moltiplica, forse perché io non sono temperamento geloso, però penso che se uno ama una cosa poi ne ama tante, quindi, e siccome c'è l'amore per i libri alla base di tutto questo, quindi va bene. L'avete sentito dalle parole di Chiara Valerio, dunque nessuna spaccatura con il Salone del Libro di Torino. Infatti la Valerio faceva riferimento a Nicola La Gioia, che è appunto il curatore dell'edizione di quest'anno del Salone del Libro torinese. Per quanto riguarda invece Milano, a Tempo di Libri ci saranno più di 700 incontri tematici, declinati, come avete sentito, secondo le lettere dell'alfabeto. E allora abbiamo sentito già Jane Austen per la J, ma poi ci sarà la R, che sta per Rivoluzione Russa, visto che quest'anno cade il centenario, quindi ci saranno alcuni incontri su questo tema, la G di Grand Tour, la S di Sangue per festeggiare i 70 anni del re dell'horror Stephen King. Fra gli ospiti, naturalmente tanti, tantissimi, sia gli stranieri che gli italiani, ne citiamo solo alcuni: l'israeliano David Grossman, la scrittrice di culto Edna O'Brien, lo spagnolo Javier Cercas e la spagnola Clara Sanchez. Ci sarà Irvin Welsh, insomma quello di Trainspotting per intenderci, e Sophie Kinsella, insomma l'avevate sentito anche prima, quindi anche la narrativa pop. Fra gli italiani citiamo solo alcuni: Gianrico Carofiglio, Carlo Lucarelli, Maurizio Maggiani, Melania Mazzucco. Spazio naturalmente nella fiera milanese alla letteratura per bambini e ragazzi. Il programma 018 è stato curato da uno degli scrittori per bambini più famoso, Pier Domenico Baccalario. Il programma ragazzi è integrato con quello serio, tra virgolette, quello per adulti, per il programma generale, cioè segue le stesse 26 parole e dell'altro programma, declinato su tematiche, sulle stesse parole ma con tematiche specifiche per i giovani e le giovani lettrici. Ci sono tre dorsali importanti: una è quella scolastica, che si esplicita nei primi tre giorni della fiera, quindi con quell'esigenza di contenuti, di qualità e anche didatticamente interessanti per le scuole. Una è una dorsale, diciamo, più di intrattenimento, di autori che speriamo che ai giovani lettori e lettrici piacerà incontrare per loro scelta, e quindi stanno loro a trascinare le famiglie. E una terza invece è una dorsale di contaminazione, quindi tutto quello che i ragazzi ci stanno insegnando è la nuova letteratura, che si chiami parole di youtubers, che si chiamino escape room, che si chiamino videogiochi, ecco, tutto quello è da esplorare, e durante tutte le giornate ci sarà anche questa ricerca di contaminazione di nuove forme espressive, sempre con una scatola dei libri molto importante, cioè deve essere una storia. Naturalmente ci saranno incontri con gli scrittori, i laboratori. Possiamo fare un esempio di una giornata tipo di un bambino, di un ragazzo che vuole venire a Tempo di Libri? La giornata tipo inizia con il nostro lettore o lettrice che va a ritirare il suo passaporto di lettore. Il passaporto di lettore è un documento, un grande foglio ripiegato, in cui scriverà nome e cognome, libri preferiti, luoghi immaginari frequentati. Dopodiché dovrà andare a caccia, e quindi negli incontri e negli stand, dei timbri di tutti gli autori che quel giorno stanno in fiera. Ogni autore ha un suo timbro, sono 100 timbri disegnati a mano da Andrea Cavallini, uno dei migliori grafici italiani, uno per autore presente, e tutti i giorni ci sarà la possibilità di collezionarli, di arricchire così il proprio passaporto, ricordandosi poi dov'è che si è stati, cosa si è visto, un incontro con un autore straniero, un panel tra più autori. Ecco, un'altra cosa molto caratteristica secondo me di questa fiera: non ci saranno presentazioni di libro con l'autore che sale e dice ho scritto questo, è bello, leggetelo, oppure bambini l'avete letto, adesso fatemi le domande. Sarà tutto impostato su sempre avere almeno un paio di autori e autrici che dialogano tra di loro con punti di vista differenti. Chiusi i cancelli della fiera di A Tempo di Libri alle 19:30, diciamo che gli eventi e la festa si trasferiranno in città con le librerie che a Milano saranno aperte anche di sera. Per tutto il programma, per i dettagli e i particolari, vi rimando comunque al sito internet tempodilibri.it. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it in podcast. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.